settimane. Fagli capire che c'è da cambiare. Fagli sentire frasi cazzate da persone inadattate. Adattarci o adattare è la domanda che vi voglio fare. Neonazismo, corporazioni, imperialismo, dominazioni. I soldi e di capitale, che schifo, vi voglio stuprare. Pianterò le vostre menti in aria per lo Stato. Propaganda sfacciata. Chiederò a te. Propaganda sfacciata. Inciderà nelle vostre menti un taglio testi che ho coinciso, che vi spieghi che sono deciso a fermare voi il creato per salvare un solo condannato. Condannati per ideazioni manipolati da potenti viziosi. Ma io ucciderò capi potenti e inciderò nelle vostre menti propaganda sfacciata. Inciderò Asepsi, propaganda facciata. Inciderà Asepsi, propaganda facciata. Propaganda facciata. Propaganda facciata.